Taggami le tue poesie, tutte le tue anomalie. Taggami tutti i tuoi soli e tutti i pesci di tutti i mari. Taggami le tue foto, le spiagge, il tramonto, il tuo sfogo. Taggami le tue carezze in questo mare di anime perse. Taggami la notte anche il giorno. Taggami il tuo inverno. Taggami le tue ferite, il tuo paradiso e anche il tuo inferno. Tagga, la porta è aperta. Entra, non devi bussare. Lasciami una rosa sulla finestra, sul davanzale. Io non chiudo la porta in faccia mai a nessuno. C'è chi ti dice tu sei un amico, ma stai lontano. In questa rete piena di polpi in cerca di un trono. Io resto aperto la notte e il giorno e anche il mattino. Taggami la tua agonia, la tua speranza, la tua pazzia. Taggami tutti i tuoi sogni. Taggami anche tua zia. Taggami che la mia posta è una lettera sempre aperta. Chi ti dice che sei in casa? Ti dice solo tu resta a casa. Taggami la tua influenza, la tua rabbia, la tua credenza. I tuoi alberi, il tuo gatto. Taggami la tua pazienza. Taggami i tuoi tegami, le tue pentole, i tuoi remi. Taggami col cuore grande per abbracciare la tua fronte. Io non chiudo la porta in faccia mai a nessuno. C'è chi ti dice tu sei un amico, ma stai lontano. In questa rete piena di polpi in cerca di un trono. Io resto aperto la notte e il giorno e anche il mattino. Taggami la tua prigione, la tua mercede, la tua passione. taggami che siamo in tanti ad aspettare che il vento cambi. Taggami le tue illusioni, i tuoi saluti, le mie canzoni. Taggami le praterie, i tuoi cavalli e gli aquiloni. Taggami la tua coscienza, il tuo respiro, la tua innocenza. Taggami che il sogno cresce e stiamo infine arrivando alle coste. Taggami i tuoi dolori, ogni tuo sguardo, i tuoi albori. Taggami che la solitudine non ha bisogno di vederci soli. Io non chiudo la porta in faccia mai a nessuno. E chi ti dice tu sei un amico ma stai lontano? In questa rete piena di polpi in cerca di un trono, io resto aperto la notte e il giorno e anche il mattino.